Riflessioni da Marte. Come si può osservare da quassù, appunto da Marte, con l'occhio sempre appiccicato al telescopio, i misteri italici si infittiscono sempre più. L'enigma degli enigmi, non ancora risolto da settimane, come dicemmo, è quello che più fa tenere il fiato sospeso. Quanti sono gli esodati? Perché il loro numero rimane ancora un mistero? Ha forse a che fare con la profezia dei Maya e la fine del mondo, che comincia magari proprio da loro, dagli esodati? O si tratta di un sequel, il seguito in parole povere, della Divina Commedia con una nuova, vincente categoria di anime del purgatorio? Il commissario Maigret e il tenente Colombo avrebbero forse saputo dare, sul numero dei senza collocazione, risposte più convincenti della ministra del lavoro? Gli inquirenti brancolano nel buio, eppure pare qualcun altro. Ma un nuovo inquietante interrogativo pervade lo stivale italico. Quante ferie fanno gli italiani? Il sottosegretario Polillo spara a caso e parla di 3 mesi, 3. Gli studiosi di antropologia vacanzofila si mettono allora immediatamente alla ricerca dei rari esemplari italioti spiaggiati per 3 mensilità sul bagnasciuga. Ma pare che al momento non ne siano stati reperiti nemmeno al billionaire di Briatore. Ma Polillo, si sa, è un uomo di cospicua creatività e dopo l'idea straordinaria per risollevare le magnifiche sorti e progressive del bel paesello di tassare gli animali domestici, idea con la quale ha rischiato di essere inseguito dai cani addestrati per la caccia alla volpe, o meglio al volpino, dopo questo, dicevamo, Polillo non dorme la notte ed escogita un'altra strepitosa trovata per risollevare il PIL e soprattutto il morale del popolo italico. Dice, si potrebbe rinunciare a una settimana di ferie all'anno e lavorare quindi 7 giorni in più a parità di salario. L'ingegnosa proposta suscita istantaneamente in tutta la penisola un tale entusiasmo che il sottosegretario creativo rischia di diventare uno dei maggiori collezionisti di pomodori non di buona qualità. Che sia stata sempre sua l'idea di dare agli studenti della maturità il tema sui giovani e la crisi, sperando che magari almeno da loro venisse qualche proposta, diciamo, meno creativa, ma più praticabile? Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio del padrone. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta.